La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю я. Questo è il tema di Lara, dal film che quasi tutti hanno visto, credo, se non tutti, Il Dottor Zhivago, tratto dal romanzo di Boris Pasternak con Omar Sharif e Julie Christie. Tutti hanno visto questo film di David Lean, ma pochi sanno chi era il modello di Lara. Il modello di Lara, al quale ha pensato Pasternak scrivendo il libro, era Larissa Reisner. Chi è Larissa Reisner? Era la donna della rivoluzione. È una leggenda. È la dea ventenne che si trovava a bordo dell'incrociatore Aurora durante l'assalto a Palazzo d'Inverno. Il più famoso colpo di cannone della storia lo fece sparare lei. Ma prima ancora di diventare l'eroina delle battaglie sul Volga, già le sue gesta erano una leggenda. Lei non temeva gli spari. Si buttava in battaglia perché era convinta di essere immortale. Pasternak un giorno appunto ne avrebbe fatto il modello di Lara nel Dottor Zhivago, che io chiamo il Nobel de Feuilleton. Però Pasternak la rese piccina rispetto all'originale. È una Larissa annacquata la sua Lara, perché altro che sparare al suo seduttore, Larissa trascinava gli eserciti. L'unico legame fra Larissa e Lara sarà poi l'attrice Julie Christie, che nel film è il ritratto di Larissa e almeno in ciò l'avvicinò all'originale. Questa è la testimonianza di uno che l'ha conosciuta bene, Vadim Andreyev, e scrive di lei: quando camminava per strada pareva che portasse la sua bellezza come una fiaccola, e persino gli oggetti più grossolani acquistavano al suo avvicinarsi una inaspettata tenerezza. Gli uomini rimanevano immobili come pali e pochi riuscivano a non innamorarsi perdutamente. Dunque Larissa Reisner andò a combattere sul Volga contro i bianchi. Era aiutante di campo del marito, Raskolnikov, che portava incolpevolmente il nome dell'assassino di Delitto e Castigo. Invece era un piccolo magnifico marinaio di Kronstadt, che era diventato un grande ammiraglio. E proprio a Kronstadt si erano conosciuti, dove Larissa, prima della rivoluzione d'ottobre, organizzava il lavoro di propaganda nella base navale. Poi andrà sul Volga, parlerà ai soldati, infiammandoli con l'eloquenza, col suo semplice eroismo, i capricci, il senso del teatro. Si lanciava sempre avanti per prima, in una sfida continua alla morte, che con lei perdeva sempre. Si introdusse per due volte nelle linee nemiche, una volta travestita da contadina, un'altra da ufficiale bianco, e pare che in entrambi i travestimenti fosse bellissima. Mandava ai giornali la cronaca della guerra civile, ovvero il cantare delle proprie gesta. Di giorno combatte e di notte scrive di sé, come se Orlando e Ariosto fossero una persona sola. Combatteva, scriveva, faceva l'amore, non dormì per 2 anni. È vero che allora girava anche tanta cocaina. Infatti nel Dottor Zhivago si incontrano di quei capi dell'Armata Rossa che sono di chiacchieroni invincibili, logorroici, insonni, perché ne hanno tirata troppa e non fanno dormire il dottore. Ora leggerò la testimonianza di uno degli innumerevoli uomini che si innamorarono di lei. Lui era un giovane condannato a morte, che misurava 1,40 m, quindi non era neanche troppo fortunato fisicamente. Era un mariolo di poco conto, un Nikita, senza patronimico, che le dovette la vita. Durante la rivoluzione, Nikita era rimasto acquattato in una cantina, nascosta a caro prezzo da una vecchia che lo affamava. Questo è il racconto di Nikita. La vecchia mi dava un pezzo di pane ogni 2 o 3 giorni. Diceva, non si trova niente. E invece dalla sua cucina venivano gli odori succulenti della borsa nera e il mio naso addestrato si rappresentava con serietà la forma e la consistenza, cibo per cibo. La paura era meno forte della fame. Da quel supplizio mi liberarono alcuni ragazzi della CK, più affamati di me. Dopo avermi storto l'ultimo rublo, la vecchia mi aveva venduto. I ragazzi della CK mi trascinarono in strada a calci. Volevano strapparmi il naso, appendermi per i piedi. No, per le palle, diceva un altro. Poi, non so per quale soave accidente, prevalse la legalità. Mi rinchiusero in una scuola in attesa di essere fucilato. La scuola era gelata. Si mangiava meno che dalla vecchia, cioè non si mangiava affatto. Io avevo una sola ambizione. Non vedere più musi di topi. La vera rivoluzione la fecero loro. Più dei rossi e dei bianchi, protagonisti assoluti, furono i ratti. Prima selvatici e furtivi, poi presero il campo. I loro diritti divennero sovrani. Vidi i miei compagni di prigionia essere portati via uno dopo l'altro e non tornare più. Finalmente vennero a prendere anche me e io diedi l'addio alle mie miserie, preparandomi ad andare finalmente in un mondo senza topi. Vennero a prendermi 2 uomini a cavallo e quelli a cavallo fucilano. Finché sono a piedi ci si può ancora mettere d'accordo, ma quando sono a cavallo non c'è speranza. Avanzavamo seri, costeggiando la nieve, io piccolo piccolo, legato in mezzo, ed ecco, di fianco a noi, dalla nebbia del fiume, scaturì un'apparizione. Apparve il Panfilo dello zar, come un fantasma. Pensai, lo zar è morto e sto per morire anch'io. Dal ponte qualcuno ci stava guardando col cannocchiale, un giovane di belle fattezze, con un gran colbacco fulvo. Dovevamo essere un triste corteo. Il giovane ci gridò qualcosa, facendo segno. E poi si buttò in una scialuppa, e la scialuppa venne verso di noi, con 2 marinai, il ragazzo del cannocchiale, che saltò agile per primo a riva. «Fermatevi!» ordinò i miei guardiani. «Ma voi chi siete? Non mi riconoscete?» Il giovane si tolse il colbacco, e un'onda di capelli neri gli cadde sulle spalle. «Sono il commissario del popolo, Larisa Reisner». Sotto la pelliccia balenò la divisa da marinaio e la pistola alla cintura. I miei fucilatori saltarono giù da cavallo. Le si inginocchiarono davanti per baciarle la mano. Anch'io sarei voluto cadere in ginocchio davanti alla bellezza. Ma ero legato. Paura. Voglia di fuggire. Tutto fu scordato. Quasi speravo che volesse tagliarmi la gola con le sue mani. Il commissario del popolo, Larisa Reisner. E alla sola idea che si sfilasse i guanti, il cuore mi batteva a stormo. La guardiana del faro. Torniamo alla storia di Larisa Reisner, la leggenda della rivoluzione d'ottobre. Questa è la testimonianza di uno che l'ha conosciuta bene. Lui era un giovane condannato a morte. Larisa era lì davanti a me e diceva ai 2 soldati: «Chi è quest'uomo? Dove lo state portando? È una spia. Abbiamo l'ordine di fucilarlo». Lei mi guardava con desiderio, come un oggetto in vetrina. «Datelo a me». «Ma gli ordini? Che fretta c'è? Lo potete fucilare anche domani. Ma stasera ne ho bisogno». Le mie guardie cedettero. Larisa promise che mi avrebbero riconsegnato il giorno dopo. Né io né loro osammo chiedere perché mi reclamasse con tanta insistenza. Slegato, stregato, con un sorriso sciocco, salì sulla scialuppa e fu issato a bordo della barca imperiale, con lei al fianco. E finalmente mi disse senza complimenti perché mi aveva regalato un giorno di vita in più. Quella sera dava una festa in maschera e mancava il nano. Il tema era il tempo di Caterina II e a me sarebbe toccata la parte del suo mignon. Poi per la fame, il freddo, l'emozione di stare sul legno dello zar e l'amore subitaneo e la vicinanza della morte, caddi di schianto sul ponte in un dolce buio. Mi risvegliai nella cabina di Larisa, circondato da un lusso impudente. Un salone enorme, arredato con statue di bronzo e di marmo, lavabo di alabastro, tappeti meravigliosi, divani di velluto, pelli di tigre, incensi. Doveva essere di molto più sobrio quando ci stava lo zar. Larisa indossava una tunica azzurra intessuta d'oro e portava la corona. No, era la treccia dei suoi capelli neri intorno al capo. «Sei debole, devi mangiare, compagno», mi diceva il più strano commissario del popolo che mai si fosse veduto. Con le sue mani perfette, che sapevano tirare di schermo e pistola, mi servì una cena da Ali Baba. Ostriche, pernici, storione rosato e altre bontà che non saprei ridire, perché non sapevo cosa fossero. «Prendi, povero orfano», mi diceva, e si compiaceva del mio appetito. Il marinaio che ci serviva i cibi, geloso di quel banchetto offerto a un pezzente, la rimproverò. «Compagna Reisner, il popolo muore di fame!» E intanto guardava con rabbia uno per uno gli oggetti preziosi. Ella gli rispose benigna: «Noi facciamo tutto per il popolo e dobbiamo avere quello che si sono sempre presi i capi. Se no, come si fa a riconoscerli?» L'unica sincera. I futuri capi avrebbero costruito la loro fortuna sull'ipocrisia, sui privilegi mascherati, con un'organizzazione preposta a proteggere lussi e orge. Larisa dispiegava in faccia a chiunque i tappeti di Astrakhan, i luminosi persiani e gioielli delle nobildonne ammazzate, e dava da mangiare a un condannato su piatti d'argento. Larisa Reisner fu per caso un'eroina sovietica, ma il suo ideale era Stenka Razin, il fastoso ribelle secentesco che finì squartato. Come nel quadro di Surikov, il pittore cosacco, dove Stenka va nella sua barca coi remi alzati, come le ali di un uccello sul punto del volo. Un suonatore lo allieta. Lui e i suoi briganti, nella solitudine dell'acqua, sono vestiti d'oro. Egli è fiabesco, altrove. Larisa era in una bilina, ovvero in un canto popolare, e cantava se stessa. Non solo Stenka Razin aveva in mente, ma anche le donne della Rivoluzione francese aveva studiato Larisa. Aveva in mente Olympe de Gouges, che durante il terrore danzava coperte di veli, nuda, impersonando la Dea Ragione. Un anno dopo sarà ghigliottinata. La ascoltavo. Il fascino del suo linguaggio di ragazza bene pietroburghese, cresciuta fra i libri e i marinai, che alla finezza dei suoi studi univa espressioni da bandito. La sera cominciò la festa. Nel nero della notte, sulla nieva, scintillava di fiaccole la barca del povero zar. Apparve Larisa, vestita da Caterina II, con un abito autentico dell'imperatrice, che mai fu slanciata e bella come lei. Caterina II era corta e tozza, e a lei stava piccolo il vestito. Il seno si dibatteva nella scollatura troppo stretta, ma la sua maestà aveva ragione di tutto. Corsi a reggerle lo strascico. Mi aveva ghindato con gli abiti del suo guardaroba teatrale, saccheggiato chissà dove. Mi battezzò bolscevico con un cappello a tre punte e gli scarpini gialli e mi presentava tutti. Questi è Rigolevski. Fiumi di vodka, mari di champagne. Sono in ostaggio. Se piacerò a quella fantastica brigantessa, forse non mi fucileranno. La mia allegria di morituro toccato dall'amore. Che importa dopo? E questo fuoco non mi fece lamentevole, anzi, orgoglioso, col guizzo di impertinenza che dà solo Eros. Fiammeggiavo. Ero piccolo, ma fiammeggiavo. Diventai il portafortuna di Larisa per una sera. La feci divertire in mezzo alla sua corte. Fumavano gli incensi. I marinai portavano le pietanze su prati di crescione acquatico. C'era tra le maschere Patyomkin, a lungo amante di Caterina e suo compagno di imprese titaniche, ripudiato alla fine da lei quando erano già vecchi e morto di dispetto. Ma quella sera vivo, nella persona di un giovane bolscevico con una benda sull'occhio, come il famoso ammiraglio, in giacca settecentesca ma sotto il cinturone con la cartucciera, il fazzoletto rosso al collo. Stenka Razin. O pirati da una mille e una notte che si fregiano delle spoglie degli uccisi. Da sotto una parrucca di boccoli bianchi spunta la testa rapata di un tartaro. Le damine col porte-enfant hanno i capelli alla garçon. Dopo i primi bicchieri sembra la scena di una mutazione, l'incantesimo ancora incompleto che trasforma i cortigiani di Caterina la Grande in giovani rivoluzionari del tempo nostro. Quelle maschere erano tutte armate. Danzai per lei, feci un mezzo salto mortale, agitai all'impazzata i campanelli, diventando in cuor mio un ardente bolscevico e il perfetto buffone di Caterina. Dopo che con le amenità ebbi fatto ridere, d'un tratto, col mio costume ridicolo, le dissi tutta la mia gelosia, recitando Pushkin, serio, quasi di pietra. Lei mi guardava, turbata, mi parve una lacrima. Ma al mattino i marinai mi svegliarono per consegnarmi ai soldati. Dal sogno tornavo al mio destino di fucilando e senza nemmeno rivederla. Quando ero già sulla sciaruppa, la risa piombò sul ponte scramigliata, la pelliccia buttata sulla camicia da notte, si intravide un seno. «Lui è mio!» gridò. Mi fece tornare su. Parlò con le mie guardie. Forse balenarono dei rubli. Ero libero. Libero, si fa per dire. Mai mi fu possibile dimenticarla. Nessuna brava ragazza poté mai prendere il suo posto. Divenni segretamente monaco di Larisa, in una castità tormentata. La rividi solo da morta, nella bara, facendomi strada a spintoni spietati, pestando piedi, colpendo stomaci, tra la folla fittissima, dolente, innamorata. E io ero geloso di tutti quei pianti. Solo io ne avevo diritto. Donna fortunata, il tifo se la portò via a 30 anni, prima che dovesse subire l'uguaglianza per la quale aveva combattuto e che non avrebbe mai sopportato. Larisa Reisner morì quando era ancora una dea. Braccia per voi sono state ali, le mie gambe una bellissima coda, sono stata pensata per voi, un uccello del paradiso, dalle piume di fuoco, sono stata aquila e pavone, falco, allodola, usignolo, sono stata una farfalla breve e delicata, guardami volare, fiore narciso, prima che il cielo cada sui corpi straziati. Per voi sono stata fenice. Di quel volo conservo la vita, l'apertura possente d'ala, il respiro leggero, lo scanzonato riso e il cuore, il solo a sapere le cose. Natascia Stepanova, poetessa russa, ha appena letto una poesia non dedicata direttamente a Larisa Reisner, ma di Natascia Stepanova parleremo tra poco. La guardiana del faro. Una rosa meravigliosa, una rosa dolorosa, una rosa a primavera nel giardino in fiore, rosa rossa del perdono, terra, acqua, sole, una sola rosa rossa, spine, petali e foglie, rosso scuro porpora, nostra rosa dell'amore, cuore mio, ascolta, cuore mio, una rosa, una sola rosa rossa, meravigliosa, sacra rosa. Questa poesia l'ha scritta Natascia Stepanova e Natascia è proprio russa, è elegante e sofisticata, come ci hanno fatto immaginare una russa i libri di Dostoevskij. La ragazzina Natascia era entusiasta dell'Unione Sovietica, non fece in tempo ad accorgersi che era una dittatura, perché se ne andò molto presto. Le scuole funzionavano, si sentiva sicura come cittadina, ha ancora un velo di nostalgia per quell'idea di uno stato mamma che penserà sempre a te. Ci pensava in modo anche atroce, ma Natasha, come ho detto già, andò via prima di accorgersene, perché molto presto ha incontrato un italiano. Abitava in un piccolo paese, tutti andavano a vedere lo straniero, era un evento, e lui la nota, è molto bella, la invita in un grande ristorante che finora Natasha ha visto solo da fuori. Per lei ordinò la bistecca e lei rimane paralizzata perché non ne ha mai mangiata una. A casa sua la carne si mangia macinata con la zuppa e non sa come si fa a mangiare una bistecca, quindi non tocca cibo. E qui c'è già tutto il suo orgoglio demoniaco. Poi ha sposato quest'uomo e in 30 anni non è mai più tornata nel suo paese. Le ho chiesto ma perché? E lei ha detto, ma ormai che è morta la nonna, che ci vado a fare? E mi portò alla chiesa ortodossa, celebrata da quei loro preti col pitino di vespa, in quella tonaca con la vita fasciata come toreri, queste barbe seducenti, curate, e quelle voci da grandi cantanti. Ora, è vero che anche il meno venusto dei parroci cattolici, attraverso la sua autorità spirituale, può far innamorare il 90% delle devote, ma i preti ortodossi, io credo, molto di più. Natasha ha sempre da fare coi preti, ora grandi intese, ora grandi polemiche, e nei suoi racconti che hanno qua e là di ghigni da gogol sono sempre pieni di preti, aggrappati ai lampadari, dovunque, di una umanità irresistibile. Con Natasha qualche volta litighiamo selvaggiamente, perché lei è una zarina e io sono una moralista, e poi non si fida delle donne, lei può fare quanti sforzi vuole, ma non riuscirà mai a credere che non siano tutte sue nemiche. Lei è una regina e non divide il mondo con nessuno. Non si fida nemmeno degli uomini, cioè non è che questo trattamento è riservato solo alle donne. Lei è un re e non divide il mondo. Quando litighiamo, io le scrivo delle lettere come questa, questo è un brano. Natasha, mi ricordi le donne di Dostoevsky, tormentate, capricciose, affascinanti, intellettuali, con passioni tremende, ma tutte apparenti. Penso a Anastasia Filippovna, a Katerina Ivanovna o a Grushenka, perché la loro unica passione è uno sterminato orgoglio. Donne che fino a un momento prima non sai se ti vogliono sposare o uccidere, perché a seconda del loro estro possono fare una cosa o l'altra. In fondo non entrano mai in contatto con gli altri, o solo per brevi momenti, di solito finché non li hanno conquistati. Io Natasha l'ho incontrata in autobus. I più belli incontri, devo dire, li faccio per la strada o nei mezzi pubblici. E scopro ben presto che questa bella donna non solo conosce magnificamente la letteratura russa, ma molto bene anche quella italiana. Insomma, dopo questa amicizia in autobus, lei si mise in testa di tradurre il mio libro Gelosa di Majakovskij in russo. Lo ha fatto insieme a Yevgeny Vagin, vaticanista, un amico che purtroppo non c'è più e che io rimpiangerò sempre. Questo grande orso russo, pazzo, generoso, coltissimo. E di lui avrebbe potuto dire Majakovskij, come disse di Jesenin, meglio morire di vodka che di noia. Ma nel caso di Yevgeny, io credo, avrebbe detto meglio morire di vodka che di dolore. Gli scritti di Natasha non piacciono soltanto a me, ma a due poeti, e non dico grandi perché mi sembra offensivo. Poeta contiene già in sé ogni grandezza. E questi due poeti sono Elio Pecora e Umberto Polignano. Posso chiedere alla Capitaneria di Porto di chiamarmi Natasha Stepanova? Capitaneria di Porto. Come richiesto, la poetessa Natasha Stepanova è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarle. Pronto, Natasha? Sì, Barbara. Ti ho chiamato perché vorrei che ci leggessi con la tua voce delle poesie. Va bene, anche perché io non vorrei parlare di me, ma una buona parte della mia emozione di oggi è dovuta proprio alla radio. Ricordo, da bambina, nella piazza centrale del villaggio dove sono cresciuta, c'era questa specie di megafono in cima ad un palo che ci parlava, dalle 6 del mattino a mezzanotte, a voci suadenti, ben impostate, in un russo perfetto, e raccontavano poesia, teatro, opera, propaganda. Mi ricordo d'inverno, con la neve fuori dalla finestra, le voci della radio e i libri erano come gli amici, cari al cuore, che ci tenevano compagnia la sera in casa, a sognare, a immaginarsi questi paesi e amori lontani. A proposito, amori lontani, amore, ci sì. Leggi quella poesia che si intitola Ai ai amore? Ok. Ai ai amore, quando passa il tempo ai piedi calzati leggeri, quando lo vedo passare ai capelli di grano che toccano in terra, ai ai, non mi pensi più. Nella notte ho ricamato per te un cuscino di stelle e insieme la celeste luna che amo, ai ai, i tuoi occhi non mi guardano più. E i miei occhi si fanno due lucerne spente di un azzurro cupo. Ai ai, morirò senza più baciarti. Quando la tua voce non è al mio orecchio che parla, le mie labbra sono viole morte. Quando non vedo più il tuo volto, i miei occhi si fanno di un'oscura acqua che non prende fuoco. Ai ai, che pena di me, ho nel mio cuore affranto, quando passa il tempo dai lunghi capelli di grano. Ai ai amore, presto morirò senza più baciarti. Senti, Ciliegia anche aveva una gonna rossa. Avevo una gonna rossa, come scarlata è una rosa, come un tramonto porpora, una gonna rossa, taglio a ruota. Era una gonna assai vistosa, la portavo come si porta in dono un cuore, con trepidante cura e orgoglio, e mi avevi amato come si ama il sole. L'acqua del fiume raccoglie le voci, la rosa ha perso dei petali porpora, nell'acqua del fiume cadono foglie. Signore, quando peserai i cuori, so che ti ricorderai di me. Oh, rose rosse, avevo una gonna di rosso scarlato, taglio a ruota. Saluto Natascia con questa lettera, che è una sua lettera che lei ha scritto all'editore per questa raccolta di poesie che si chiama Tutte le cose sono del cielo. Gentile editore, io scrivo me stessa. La poesia per me è un modo di essere, mistico e di perdono. Di perdono per quelli che mi hanno amato, chissà, che io ho amato e sono tanti, e anche per quelli che non mi amano e sono parecchi. Di perdono per me stessa, perché siamo ben lontani dall'amare. Il mio con la poesia non è mai stato un rapporto da psicanalisi. La poesia è il mondo intorno a me e oltre. È parte di me ed io sono parte di tutto. Ed io non sono niente. Voglio pensare alla poesia come un dono di luce, un dono di eterna giovinezza. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. È troppo chiedere che mio marito, dopo 30 anni di infedeltà, rinunci almeno a vantarsi davanti agli amici, con allusioni volgari che credono che io non capisca perché sono ingenua, in quanto sono stata una donna fedele? È troppo chiedere che rinunci a dire che la moglie dopo un po' diventa come una sorella e andarci a letto sembra un incesto? Crede d'essere spiritoso. Invece, quando parla, gli amici si guardano fra loro e io mi vergogno due volte per quello che dice e per la figura che fa. Sono casalinga. Ho buttato la vita nell'economia domestica. Lui è quasi ricco. Amministra lui, devo chiedergli tutto, e mi fa i conti sospettosamente, mi tratta come una serva ladra. È troppo chiedere a mio marito di non flirtare davanti a me con la prima che capita, è troppo chiedere che almeno non si vanti col figlio. Ariete, 1953. Sì, signora, è troppo. Lei chiede l'impossibile. Lei chiede che un uomo volgare diventi un gentiluomo, che un chiacchierone sappia tacere, che un insicuro rinunci alla parata delle sue finte certezze. Lei, signora, chiede la luna, chiede un rispetto che non le è mai stato accordato. Chiede che un uomo ridicolo si accorga di esserlo, che un padre sciocco diventi delicato. Lei chiede la notte di diventare giorno. Lei chiede a suo marito quello che mai le darà. Gli chieda invece molto meno. Gli chieda la separazione legale, con alimenti. Se lei è nullatenente e lui benestante, è inevitabile che sia costretto a mantenerla. Motivo? Il disgusto. La invito a dare proprio questa motivazione legale. E se richiesta di entrare in particolari, le basterà dire le cose semplici che ha scritto a me. Perché deve continuare a rischiare la salute spirituale e perciò anche fisica in compagnia di un torturatore così limitato? Se le piace soffrire, se ne trovi un altro, uno migliore. Guardi, signora, che ce ne sono di raffinati in giro, professionisti del tormento che la farebbero morire tra le delizie, ma non di boia in cravatta, noiosi come il suo sposo, uno imbecille a un solo programma. Si separi, ma subito, domani. E se non è abbastanza elastica per questo passo, ci sarebbe un altro modo, desueto, per zittire suo marito. La mordacchia, che è un crudele congegno medievale, usato in passato per chiudere la bocca ai bestemmiatori. Una cosa di ferro e di legno. Perché quest'uomo è un bestemmiatore. Lui bestemmia, disperdendo in sciocchezze l'alito vitale, che non gli fu dato per questo. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, sto impazzendo. E non impazzirò di meno se mi rispondi, ma almeno lo avrò detto a qualcuno. Con quelli che conosco mi vergogno. Mi ha incoraggiata a scriverti la lettera di quell'ascoltatrice che usciva con uno che sembrava pazzo di lei e quando gli ha detto che lo amava, lui le ha fatto una scenata da levarle la pelle. Il mio ragazzo, mio per modo di dire, invece è gentile, ma la sostanza è la stessa. Ha fatto fuoco e fiamme per uscire con me, SMS, messaggi mandati da amici, poi finalmente gli do retta. Ci vediamo, mi innamoro, lui sta sempre con me, ma mi tratta da amica. Finché gli ho detto che lo amavo. Lui ha detto che non sa, che col tempo... Andiamo avanti così da un anno. Mia madre mi vuole mandare dall'analista. Io sono uno straccio, sempre sulla corda, facendo la sorridente per non assillarlo. Valeria. Ma perché, Valeria, stai a questo martirio? Io non posso pensare che umiliazione, che noia, stare sempre a spiare se gli compare in faccia qualche segno d'amore. Un amore che manco è nato e già lo devi assistere come un moribondo. Come va oggi? Va, speriamo. Voci sommesse da ospedale, da corridoio. Insistere aspettando che col tempo avrebbe una sola giustificazione. Se foste soli in un'isola deserta o in una cella di prigione e foste costretti a dovervi piacere l'un con l'altro, cercare di piacervi. Ti rispondo con un brano tratto dal romanzo Il fascio comunista di Antonio Pennacchi. Anche l'ultima volta avevo risposto con delle pagine di Pennacchi tratte da Show 150. È adattissimo, perché un Pennacchi al giorno toglie lo psicanalista di torno. Nel libro si parla di Accio, un ragazzo della tua età che abita a Latina e viene affascinato da una bellissima ragazza di Milano, scura di pelle, con una corona di capelli neri ricci. E all'inizio, anzi, è lei che lo corteggia, è lei che lo affascina. E Accio, come dice di sé Alfieri nelle sue memorie, è pieghevolissimo agli avvisi amorosi. Insomma, si innamora. Ma appena Francesca lo ha nella rete, attacca pure lei con questa litania. Siamo solo amici, col tempo vedremo. E lui per 2 anni sta appeso a questo col tempo vedremo e va continuamente a trovarla da Latina a Milano, facendosi ogni volta più o meno 1000 chilometri in autostop, fra andata e ritorno. Si vedono, lui profonde patrimoni d'amore, di pazienza, di invenzione, e quando proprio gli va bene c'è un bacio sulla guancia. Lui è contento lo stesso di vederla, 1000 chilometri gli sembrano niente per il piacere di poterla avere accanto, e poi spera. Te lo leggo, ma soprattutto ti leggo come finisce. Perché quando incontri qualcuno che gioca da solo, che non ti spiega qual è la partita per il quale sei stato ingaggiato, che dice di volerti bene ma non riesce ad avere con te alcuna confidenza, è un giocoliere delle vite altrui. Con lui non si può che perdere. Ecco il brano dal fascio comunista. E parla di lui, appunto, che la va a trovare a Milano, sono ragazzini, e lei per vederlo il più delle volte saltava la scuola, bigiava, come diceva lei, e andavamo in giro. Poi l'accompagnavo a casa. Il pomeriggio sì e no che la vedevo per altre 2 o 3 ore. O che aveva da studiare, o che la madre non la lasciava uscire, o c'era in giro il padre. Qualche volta si inventava delle scuse e allora tutto andava bene. Se no mi toccava stare le ore in giro per Milano a fare avanti e indietro per il Duomo o aspettare sotto casa sua, nelle panchine dei giardini. Più di qualche volta sono andato fino a Milano per vederla in tutto 1 ora o 2. Aspetta che forse fra poco riscendo a prendere il latte. Mi parevo Gianni Morandi. Ma anche quando andava tutto bene, mi toccava stare le ore ad aspettarla. Avanti e indietro, fiera, Duomo, stazione. Poi le telefonavo dalla cabina, cantando lui le canta una canzone famosa degli Annacci. E mi son chi, che cammini avanti in dre, e mi fa male i pè. Lina, mi fa male i pè. E lei rideva. Adesso arrivo. E sempre amici, e sempre solo amici. A un certo punto abbiamo litigato. Io ho detto basta, mica si può continuare così. E lei, hai ragione, non è solo amicizia, c'è qualcosa di più. Ma dammi il tempo per decidere. Vabbè, ma diamoci una mossa, mi fa male i pè. E invece è andata avanti ancora per un sacco di tempo. Mi dava lo zuccherino ogni tanto, l'illusione. E io continuavo a venire a Milano. La luna, è una lampadina, i stelle parelli montra giù dell'acqua, e mi succhi che cammini avanti tre, beppa malipè, beppa malipè, lina. Un giorno lui arriva, prova a baciarla, lei si irrigidisce e gli dice che c'è un problema. Qual è questo problema? Lui interroga e lei risponde, ho un problema sessuale. Dice che non aveva mai baciato un ragazzo, non si era mai fatta toccare da nessuno. Meglio, ho pensato, sai che dispiacere. Ma scusa, e tutte le storie che raccontavi, i ragazzi che dicevi di avere avuto, tutti quei ragionamenti spregiudicati che facevi? Era solo per far vedere. Una volta solo ho provato a dare un bacio a uno, ma aveva appena mangiato della senape e come ho sentito il sapore mi è venuto da vomitare. Vabbè, le ho detto, ma io mica ho mangiato senape, ti fa schifo pure il caffè? E lei si è messa a ridere. Però non c'è stato niente da fare, non si è fatta baciare. Abbiamo pure provato un paio di volte ad avvicinare le labbra. Le tengo chiuse, dicevo, non ti preoccupare che le tengo chiuse. E lei, devo dire la verità, ci ha pure provato. Ha chiuso gli occhi e avvicinato le labbra. Poi, arrivata vicino alle mie, scappava, le tirava indietro. Non ce la faccio. Sento la senape. Lì era da dirle, vaffanculo te la senape. Ma non l'ho fatto. Io l'amavo. Ero disposta a tenermela anche così, che me ne fregava a me. Mi bastava starle vicino, sentirla, guardarla, sapere che era mia, sapere che mi voleva bene. E gliel'ho detto. Le ho detto tutte queste cose. Gliele ho ripetute 100 volte e lei era contenta. Era felice, era radiosa. Davvero non è importante? Certo, che ce ne importa a noi? Non ti preoccupare, che col tempo passerà un po' alla volta, ci vuole pazienza. L'accompagna a casa. Lei dice ci vediamo alle 3. Mi bacia ridente su una guancia. Alle 2:30 ristavo lì sotto. Si fanno le 3. Le 3:15 si fanno le 4. Ma che eri scemo? No, ero fatto così. Se uno a me mi dice, aspetta, io lo aspetto. T'aspetto pure per tutta l'eternità. Comunque, alle 4:30 mi sono stufato, sono andata alla cabina e l'ho chiamata. Sarà successo qualcosa, pensavo. Invece non era successo niente, me l'ha detto la sorella. Francesca è qua, e la sentivo mentre la chiamava. Vieni, non fare la stupida. Porca mignotta, ho pensato. Quella è venuta e ha detto, fra poco scendo. Ma l'ha detto con voce incazzata, cupa, come chissà che l'avessi fatto. Aspetta 5 minuti e non arriva. Insomma, aspetta un'ora. Le ritelefona e lei questa volta è molto chiara. Gli dice, è inutile che stiamo a perdere tempo. Ti chiedo scusa per il fastidio, ma non ti far vedere più. Tornatene a Latina, arrivederci e grazie. Ma tu sei matta, le ho detto io. Che ti dice la capoccia? No, non c'è niente da fare. È una storia che non può funzionare. È inutile che insisti. Ciao. Lui richiama, parla con la sorella si rifiuta di passargliela. Non vuol più parlarti nemmeno al telefono. Ma tu sei scema, tu e tua sorella. Dille che scende subito, se no salgo io. No, ti prego non salire, c'è mia madre. Fra poco arrivo pure mio padre. Non me ne frega niente. Dille che scende subito, se no salgo io. Spacco il portone, spacco tutto quanto. Io sto qua sotto, ve posso inammazzare a 650 km da casa. E secondo te me ne rivado senza che nemmeno me lo dice in faccia? E per chi mi hai preso? Per Enzo Iannacci? E poi ho capito che lei stava là, a sentire di lato e ho urlato sbrigati e scende, se no salgo io. Allora è scesa, ma sono scese assieme. Anzi, la sorella avanti e lei dietro. E la sorella ha detto, cerca di capirla. Ma cerca d'andartene, l'ho fatto, fammici parlare da solo. E siamo rimasti soli. Lei, ancora sull'ultimo scalino, brutto muso, sgrugnando. Ecco, mo te l'ho detto in faccia, non ne voglio sapere più. Scusa tanto, ma cerca di andartene. E si era voltata come per tornarsene sopra. L'ho presa per un braccio, l'ho ritirata giù. Dov'hai? La sorella si è messa paura. Mo arriva papà. E l'ha convinta a venire. Lei ci guardava da lontano. Ma non c'era più niente da fare. Francesca era decisa. Non l'avrebbe smossa un carro armato. Mi dà il panico. Non fa per me. Io c'ho un problema sessuale. Ma t'ho detto che non me ne importa niente. Importa a me. Mi frega sei a me di te. Mi dai il panico. Ti do il panico. Ma stamattina dicevi che mi amavi. Bugie. Mi ci hai fatto venire fino a Milano. Ti chiedo scusa. Mi chiedi scusa? Ma vaffanculo a te e a tutta Milano, le ho detto. Hai problemi sessuali e vai a istigare la gente? Ma che t'ho cercata io? Anche lei si mette a piangere. Lui se ne va alla stazione. Ha tempo 2 ore per pensare prima di partire. Per una volta è così distrutto che non fa neanche l'autostop, che poi alla fine è la parte più divertente e più emozionante del viaggio. E le scrive una lettera di insulti terribile. Dice, ma non si fa così. Beato te, ti volevo vedere al posto mio. Dice, ma povera ragazza, pensa solo a quello che ha dovuto passare dentro quella testolina. Pensa al panico. Ah sì, povera ragazza. E io che ero? Non ero un povero ragazzo. A me non mi tocca mai. Ma quello aveva un problema. Un problema. Ma ce ne avevo tanti io di problemi. Dice, ma il suo era un problema sessuale. E i miei che erano? Matematici? Io ancora non avevo mai visto una donna in vita mia. Era dai 12 anni che andavo avanti a pippe. E adesso ne avevo 18. Questo non ti pare un problema? Alla fine ci ripensa e di nuovo torna in strada per fare l'autostop e subito ricomincia il viaggio e si sente meglio. Non è che non me ne importasse più. Avevo sempre la morte nel cuore, ma adesso un po' meno. Una morte più leggera, sopportabile, con cui si poteva pure convivere, almeno finché durava il viaggio. E qui finisce la storia. Sembra che finisca, perché in verità poi Accio ci ricadrà. Qualche tempo dopo, lui per un momento si illuderà di nuovo, perché queste storie di caucciù, in cui queste persone non ti amano e non ti scacciano, ma ti illudono, appunto giocano con la tua vita, hanno delle ricadute terribili. Liberatene, Valeria, finché sei in tempo. Chiedo scusa all'autore se, come sempre quando si legge in radio, ho dovuto un po' riadattare il pezzo tagliando alcune frasi. Anche mi son come un gatto, son chissà dal dopo tu, e calagni come un matto. E giughetti coi putolina, e mi succhi che cammina avanti in tre, beppa malipè, beppa malipè. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.